storie tese. C'hai delle sbarbe a mano? No, c'ho delle storie. Fatti questo slego. 1, 2, 6, 9! Vamos! Ed eccoci qua. Ecco, buonasera. Ecco. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata, terza puntata della seconda stagione di Ciò delle Storie. Esatto, esatto. Bravo, Rumbe. Bravo, a sto giro sei andato bene. Hai molto visto? Bene. Mi sono messo a dire il scioglilingua. Date il pane al cane pazzo, date il pane al pazzo cane. Poi ci manteniamo anche il conto delle puntate invece che come la scorsa stagione. Sì, esatto. Non ci sei... A un certo punto non ci abbiamo più capito niente. Bene, di cosa parleremo oggi? Di cosa parleremo? Giallo, vuoi farci un intro? Sì, sì. Oggi si parlerà di una cosa a me molto cara, ovvero la cucina. È un argomento magari strano da affrontare così in radio, ma sicuramente c'è modo di parlarne, ci saranno vari aneddoti. Prima di tutto... c'è una domanda che è fondamentale da farsi, no? È il perché noi si cucina, visto che fondamentalmente siamo gli unici animali a cucinarsi il cibo. E, ma, andando indietro anche non tanto, ma insomma un antropologo come Levi Strauss diceva che appunto cucinare stabilisce la differenza tra gli animali e le persone. Ovviamente lui faceva riferimento a quegli attaccamenti socioculturali che ci sono verso la cucina, ma in generale su tutte le cerimonie e sugli strumenti che si usano per mangiare. Il punto è che aveva ragione anche da un altro punto di vista, molto più basilare direi, cioè proprio da un punto di vista biologico-evolutivo. E queste ormai sono teorie che in un qualche modo si sono affermate anche nell'accademia, vengono appoggiate da molti, fra cui anche Richard Brangham di Harvard. E fondamentalmente si parte dal presupposto che siamo dei primati, ok? Quindi fondamentalmente siamo delle scimmie. E la natura ci dà qualsiasi tipo di indizio per concludere che questo sia il caso. Quindi non siamo nessun tipo di animale speciale sulla faccia della Terra, ma siamo semplicemente un tipo di scimmia. E si pone un problema, ovvero quello del trade-off, ovvero del rapporto, dello scambio che c'è tra le dimensioni del corpo e il numero di neuroni che un primate può avere. Quindi praticamente si ha una sorta di equazione, ovvero il costo del peso corporeo più il costo del numero di neuroni che ha un determinato primate deve essere ovviamente minore di quella che è l'energia che riesce a prendere dall'esterno, dalla dieta, giusto? Sì. Ora, immaginiamoci che i gorilla, gli orango, che sono fra quelli che ci stanno più tempo, passano 8 ore al giorno, quindi praticamente l'80% del tempo che stanno svegli, a mangiare e a prendere e continuare a trovare cibo. Ora, il discorso è questo. Fondamentalmente gli studi hanno dimostrato come i neuroni sono appunto in un rapporto stretto con quella che è la nostra quantità di calorie massime. Perciò, se abbiamo tanti neuroni, ciò significa che ci rimarrà meno energia per muovere il corpo. Quindi, ad esempio, i primati con più neuroni nel cervello hanno all'incirca 53 miliardi di neuroni, ma vanno su un peso all'incirca di 25 kg. Mentre se aumenti il peso del corpo, quindi fino ad arrivare ad esempio agli orango, le scimmie un po' più grandi, hanno però soltanto 30 miliardi di neuroni. Quindi, una via d'uscita da questa limitazione metabolica che c'è fondamentalmente sembrerebbe quella di dire si mangia ancora più ore, però fondamentalmente è controproducente, cioè oltre le 9 ore sembra che ci sia praticamente impossibile. Ora, se si pensa a noi, abbiamo ben 86 miliardi di neuroni e il nostro peso si aggira intorno ai 70 kg. Quindi, non so se ce li ho ancora tutti, eh. No, magari anche un po' meno, ma insomma, diciamo che rimangono estremamente tanti per una scimmia. Però mangi uguale, Nick. Forse di più. E abbiamo un peso che non è possibile fondamentalmente, siamo al di fuori di questa scala. Cioè, dovremmo mangiare oltre le 9 ore e non ci basterebbe quello che si mangia con una dieta ovviamente cruda da primati. E ecco qui che infatti entra in gioco l'unica via d'uscita, cioè... Per uscire da questo paradosso, l'unico modo è che si riesca a estrapolare più energia dalla solita quantità di cibo che si mangia. E infatti entra in gioco la cucina. Cioè, cucinare è quello strumento, quell'arte che abbiamo creato per poter predigerire, in un qualche modo letteralmente srotolare le proteine, così da renderle più energetiche e anche chiaramente meno dispendiose da digerire. Cioè, il cibo che mangiamo lo dobbiamo anche digerire, e la digestione ha comunque un suo costo energetico, e anche qui ovviamente predigerirlo cuocendolo ti aiuta a assumere più calorie. Ecco il motivo per cui a un certo punto nell'evoluzione anche dell'uomo è praticamente, non lo so, come esplosa la testa e il cranio è diventato molto più grande e ha cominciato ad ospitare questo cervello che fondamentalmente era un problema fondamentale, perché ti costa estremamente tanto un cervello con tanti neuroni, e si è trasformato il nostro asset fondamentale, no? Eh sì. Bene, direi, però Giallo, ci sta il problema opposto, no ragazzi? Cioè, alla fine ora siamo arrivati al punto per cui ci sa la possibilità di mangiare quasi in 5 minuti l'equivalente di quello che ci vuole in una giornata, e bellissimo, dulcis in fundo, la soluzione dove la cerchiamo? Nel cibo crudo, e quindi guardiamo alle insalate, alle verdure, magari con un occhio di salutista, no? Perché comunque giustamente hanno quel contro, però per assurdo è ciò da cui ci siamo dovuti allontanare per evolverci in ciò che siamo oggi, insomma. Bene, direi che sei ferrato sull'argomento, Giallo. Sì, dai, questa era una bella cosa che sicuramente gli dà spessore alla cucina, insomma. La prossima volta che rientrerete nel vostro cabinacolo a preparare qualcosa da mangiare, sicuramente vedrete qualcosa di più di un semplice piatto preparato così in 2 minuti. Tra l'altro hai usato anche la frase dulcis in fundo, chissà se ha origini proprio... Sarebbe bello indagare, sì. Sì. Bene, direi che insomma oggi parleremo di cucina con Gianluca. Invece te, Umbe, per esempio? Allora, guarda, molto sinteticamente, a tutti quanti è capitato di guardare quei video su Instagram, su Facebook, su YouTube di cucina, di ricette, che sono anche super popolari in televisione, sono ultra mainstream ormai. Sì, sì. E quindi ecco, diciamo, il framing sul cibo che viene dato attraverso questi show, questi video, ha una dimensione anche politica, ed è quello che mi interessa andare a vedere. Esatto, bello. E invece Gil, te? Noi parleremo di cucina e psiche, quindi curiosità in cucina riguardanti la psicologia, il profiling anche in base ai gusti. E altre chicche che non vi spoilerò, però dai, vi lascio a dopo. grandi. Io invece, dato che sono stato colto completamente impreparato sull'argomento, dato che non è proprio un argomento principe, ecco, nella mia vita, la cucina, non guardo né programmi, non seguo youtuber, potrei nutrirmi, penso, di rigoli e maionese. Massimo, anzi, salsa tonnata, dai. Quella è già gourmet. Quindi diciamo, vabbè, andrò a parlare un po' di quella che è quelli che sono gli invisibili, di quelli che sono di quelle che sono le persone che ci permettono di parlare di tutto questo, ma che non vengono mai prese in considerazione. Quindi qualcosa di attualità sulla situazione dei braccianti, dei riders. Insomma, cose un po' più sociali, diciamo, da un certo punto di vista. Un argomento comunque molto valido, attualissimo. Sì, appunto, molto attuale. Sì, infatti. Bene, allora io direi che... Giallo. Ma sì, avevo pensato di dire ma giusto 2 parole, però per arrivare un po' al periodo più contemporaneo, giusto un excursus di come si è sviluppata a grossi linee, perché prima di tutto non c'è granché, cioè non ci sono grandi studi su quella che è l'evoluzione della cultura, della cucina nell'arco della storia. Però fondamentalmente si può fare una ricostruzione un po' a pezzi e bocconi con qualche aneddoto particolare. E fondamentalmente le prime tracce che ci sono di cucina sono quelle nella preistoria, dove fondamentalmente, come ci si può immaginare, l'unica forma di cottura possibile era l'arrostire sul fuoco, direttamente, come si vede a volte nei telefilm, sul bastoncino, sulla fiamma viva direttamente. Mentre già nel Paleolitico si comincia a vedere le prime differenze, quindi che ne so, la prima cottura praticamente quasi a vapore, perché praticamente veniva avvolto l'alimento in delle foglie, e poi nel Neolitico invece arriva addirittura la pentola, e quindi i primi contenitori, i primi modi per cercare appunto di cuocere dentro a qualcosa. Poi ci si sposta all'antichità, e qui vabbè, con gli Egizi, ragazzi, come al solito sono, cioè, non so, surreali, cioè questi già arrostivano, bollivano, friggevano, cioè facevano praticamente quasi di tutto. All'età più o meno poco prima degli Egizi, ci sono 6500 anni fa all'incirca i primi forni, dove si è cominciato a cuocere la roba. Gli alieni, giallo. E altra cosa figa che c'è a Roma, che era gestita dagli edili, a un certo punto avevano preso i forni della città, i romani fondamentalmente hanno creato la prima corporazione dei fornai nel 168 a.C. E uguale, sempre i romani, il primo libro di cui si ha appunto traccia di ricette, sempre nel primo secolo d.C., l'Apicius o il De Re Cochinaria. Poi anche nel Medioevo, che vabbè è un periodo estremamente lungo, però dal periodo, diciamo, di Carlo Magno, quello un po' più iniziale, dove fondamentalmente il re mangiava l'arrosto. L'arrosto era il piatto da nobile, da benestante, e quindi da quello che si sa lui mangiava arrosti tutti i giorni, a diritto, fino a che poi a un certo punto, quando era anche in età più avanzata, insomma, gli hanno cercato di spiegare che probabilmente, insomma, i medici dicevano che era meglio se mangiava il bollito piuttosto che dell'arrosto. E lui si arrabbiava tantissimo, perché appunto il bollito non era una roba da grandi, no? Da re. E mentre nell'ultimo periodo del Medioevo, sicuramente nell'Alto Medioevo c'è stata un'esplosione e la cucina era anche molto più raffinata. Però per dire, una cosa che noi diamo assolutissimamente per scontato, ovvero l'ordine con cui, qui mi riallaccio al dulcis in fondo che dicevi te prima, l'ordine con cui si presentano le portate non era assolutamente quello, cioè l'idea che prima ci sia il salato, poi il dolce, poi la frutta in fondo, questa è una cosa abbastanza recente, perché per di mi ricordo chi, insomma, è che sarà fatto invitare non so dove a una grande corte, e appunto racconta che il primo piatto che gli hanno portato era un piatto di ciliegie. Pensa te, come tipo antipasto. E poi vabbè, nel 1004-1005 comincia il commercio delle spezie a diventare veramente popolare, quindi per quanto erano estremamente costose, infatti c'è quel falso mito, tante volte si sente dire che le spezie o comunque le cucine, scusatemi, le ricette medievali erano estremamente cariche di spezie, perché c'è questo, appunto, gira questa voce che è per coprire il sapore della carne poco buona, della carne andata male, insomma. Però, cioè, la carne la mangiavano spesso e volentieri i nobili, comunque la gente benestante, quindi era carne normalmente buona, e quindi l'unica spiegazione di queste ricette estremamente cariche di spezie era un po' anche la voglia sicuramente di utilizzare le cose care in cucina, un po' come noi quando oggi si pensa di mangiare il tartufo o il caviale, insomma, gli faceva un po' sicuramente anche quell'effetto. Poi in avanti, andando verso il Rinascimento, gli avanzamenti sono, cioè, infiniti. Il menù inizia a risembrare qualcosa di molto più comune, nel senso che c'è la pasta, il pane, i biscotti secchi, il pecorino, la pizza, le polpette, le zuppe, le stufate diventano roba comune anche per la gente, insomma, più povera. E si inizia in quel momento a utilizzare, per esempio, la frutta e gli agrumi come insaporitori oltre alle spezie. Quindi si amplia anche proprio in un qualche modo il gusto, fino ad arrivare poi alla cucina moderna, quindi cominciano ad arrivare i fornelli sulle stufe a legna, quelli che ovviamente avevano una resa maggiore, e poi c'è stato il primo tentativo riuscito di un frigorifero, che è del 1748, mi sembra un polacco, mi ricordo, e fondamentalmente non sono riusciti però a portarlo su una linea di produzione, cioè era una roba che è rimasta da laboratorio, ecco, diciamo così. Il primo frigorifero vero e proprio ci è voluti altri 100 anni, che è 1844, ed è stato americano quello. E poi dopo i fornelli a gas, il sandwich, i primi ristoranti, fino a noi all'epoca contemporanea, ormai microonde, induzione, adesso chi più ne ha più ne metta, cucina a bassa temperatura sotto vuoto, distillati d'essenze, il sifone di Ferrara Adrià, insomma, ce n'è, lasciamo perdere, questo sarebbe bello per un'altra puntata, la cucina contemporanea. La chimica in cucina. Sì. Però in questa evoluzione si è creato questo patrimonio incredibilmente ampio e forte che in un qualche modo dà identità, come appunto diceva anche Levi Strauss. Quindi oltre che darci la possibilità di aver sviluppato il cervello che ci permette di stare qui alla radio, ci ha dato anche la possibilità di darci delle identità forti, no? Pensiamo a quanto lasciamo andare, per esempio, molto difficilmente anche quando ci si trasferisce, non lo so. Cioè, andare in un posto dove magari se sei vestito da europeo ti vedono subito, fai presto a cambiarti magari i vestiti per cercare di mimetizzarti di più e essere più accettato, però allo stesso tempo sarebbe difficile completamente lasciare andare i nostri piatti tradizionali, cioè cercheresti sempre comunque di mantenere qualcosa della tua cucina di provenienza, no? Nel senso, è molto più difficile da lasciare andare un piatto a cui siamo attaccati piuttosto che il modo di vestire o certi altri tipi di abitudini. Sì, poi la cosa paradossale secondo me è anche il fatto che, per esempio, qua in Italia la maggior parte degli ingredienti fondamentali della nostra cucina in realtà sono tutti di, o quasi tutti di importazione. Cioè, sì. Ovvero fino alla scoperta dell'America non c'erano. È vero, assolutamente. E tuttora comunque stiamo continuando a fare cose assurde, tipo, non so, l'avocado in Sicilia, che ne so io, insomma. Sicuramente questa cosa, sì. Ormai non ci si fa nemmeno più caso. Le carote nel Medioevo, per dire, erano bianche quelle per gli animali, e poi tipicamente erano più quelle viola che quelle arancioni, e ora invece quelle viola sono praticamente gourmet da ristorante. È interessante questa cosa che diceva Nick, di come certe cose che sono considerate tradizionali, no, in realtà sono state importate nel 1600. Fa vedere bene come la tradizione è molto spesso qualcosa che a un certo punto della storia si crea proprio. Ma sì, un po' come il baccalà in Portogallo, cioè tutti vanno a mangiare il bacalhau in Portogallo, ma in realtà il baccalà è tutto di importazione. Sì. Perché sono storicamente importatori. Sono i primi consumatori e importatori in Europa, i portoghesi, noi siamo i secondi invece. Iniziamo a coriandolo. Coriandolo ovunque, come se non ci fosse un domani. Va bene, ma mandiamo una canzone? Mandiamo a questo punto canzone. Ci vuole. Mandiamo una canzone che parla di gusto più che di cucina, no? Sì, ma appunto, visto che è un tutt'uno la tradizione culinaria con l'elaborazione del gusto, visto che abbiamo ricercato cose sempre diverse nella storia fino ai piatti radical chic di oggi. Allora vediamo un po' che storia ci raccontano gli walkie-talkie. Il dramma si consuma davanti al banco frigo di una gelateria. Una persona si tortura finché non sceglie gli stessi due o tre gusti che ha scelto sempre. Una persona si misura con una certa cura sui gusti di gelato in un approccio da sommelier. Comportamento adeguato e stralci di riviste di settore sgominano la minaccia alimentare di una persona che abbina cioccolato e limone, melone, liquirizia e torrone. Una persona si frappa, oppone, dicendo che la scelta di gusti non è importante, che bisognerebbe scegliere senza farsi troppe domande. Una persona sceglie stracciatella e crema senza essersi fatta domande. Una persona si accerta che colorante, zucchero bianco e latte in polvere il gelato non ne contenga. Una persona loda la purezza di un ragazzino che scava una coppetta al buffo. Quella persona prova a riscoprire la purezza mangiando panna colorata di azzurro. Ma no, ma sono un idiota. Sono fuori tema, fuori binario, fuori dal piatto, fuori argomento. Volevo parlarvi di gusto, invece vi parlo di comportamento. Di quelle frasi che le persone sbandierano, delle sentenze che molto spesso barrierano. Ma io conosco un passaggio segreto, irto di pericoli, vicoli, cunicoli, marginalismi dove respiri a fatica. Seguitemi da questa parte, dentro i nasi, sopra le lingue, attorno ai denti, sulle gengive, muovi le epiglottide e via verso l'esofago. Le tue papille percepiscono, mentre le ghiandole piangono, enzimi di ptialina che impastano e predigeriscono. Quattro zone della lingua, quattro gusti fondamentali: il dolce, il salato, l'amaro, l'acido. A cui si aggiunge un quinto, il sapido, l'umami. È stato aggiunto di recente, per l'esattezza ha ricevuto un nome di recente. Una codifica che ci consente di attraversare meglio i gusti di pietanze come alghe, cozze, alcuni stadi di stagionatura del formaggio, alcune salse preparati con la carne dal sapore forte e quasi marcio, ma che piacciono gli animali che si cacciano e che sanno di selvatico, i vegetali acquatici a tenore alto di glutammato monosodico. Non sono cose che si inventano, non è rivoluzione percettiva, legittimazione dei sapori più cinesi, è un segnale sulla mappa dove prima c'era il vuoto, è un lavoro fatto per gli schizzinosi, per costruire loro un suolo, per trasformare l'esclamazione "che schifo" nell'affermazione "che buono". È uno sdoganamento che richiede molto tempo. La scoperta dell'umami risale infatti agli inizi del Novecento. La chiesa della percezione crede di star analizzando l'universo a partire dal concreto, ma ciò non è possibile se al posto del fenomeno si guarda solo il risultato comprovato. I dati sono numeri, la più alta delle astrazioni scrivibili. I gusti invece sono pura percezione, la cosa più stimolante su cui si può discutere, la cosa più pericolosa che si può andare a chiedere. Ed è per questo che De Gustibus disputando mest, ospitando per primo me stesso nel mio ristorante, sottoponendomi l'assaggio di un piatto, reagisco come Antoine Go, sprofondo nel gusto mentre il resto non conta. Il contenuto è la forma, mentre il giudizio mi assorda. Perdo vista e udito, le sensazioni marginali si fanno portanti. Mi concentro sui microsegnali che non rappresentano, ma che sono la realtà dei fatti. Cosa vuol dire credere solo in ciò che prendi con i cinque sensi? E le persone che vivono di aggiornamenti davanti agli schermi si precipiteranno in ristoranti e baracchini alimentari ad assaggiare cibi per capire cos'è umami. Al di là delle informazioni generali che si assimilano ai fatti, che si sedimentano in gusti, che difendono dagli attacchi interessanti dei gustisti, che non esistono, sono solo stirate di ipotesi che vorrei fossero avanti scoperte, test senza mai tirarsi indietro, insidia la dogana, aggregatori di sensazioni all'interno dell'intero schifo, alternano l'attesa all'interno, il pesce al formaggio, cuociono il riso nel piscio salato, nella coscienza di Abe no Kai Tanoshi, che pesta e mesci, pesta e mesci, pesta e mesci, pesta e mesci, figlio di un avvelenatore. Ed eccoci ritornati. Bellissimo questo pezzo. Mm-mm. Un viaggio all'interno dell'apparato digerente. Eh beh. Ormai tutto il mondo, l'industria dell'intrattenimento e del cibo ha milioni di visualizzazioni, è diventata praticamente mainstream. È diventata quasi il volto di YouTube e di Instagram. E c'è un motivo per cui ha cominciato a diventare un po' il volto di questi social, no? Un po' è stata sicuramente la sinergia che avevano col marketing, cioè è facile riuscire a vendere un prodotto se si fa un video di cucina, no? Sono sicuramente family friendly, e raramente sembrano schierati politicamente, anche se non sono mai del tutto apolitici. Spesso vengono girati da mega corporation, hanno un sacco di impiegati, sono proprio la troupe, capito? Sembra che stanno lì a cucinare da soli, in realtà magari lì dietro ci sono altre 4-5 persone. Ci sono un sacco di soldi dietro, un po' per le cucine ultraprofessionali, un po' per tutte le telecamere che sono sempre a standard di qualità altissima, no? Quindi ecco, lo rendono un po' il tema, il topic perfetto di YouTube. È difficile attirare attenzioni negative verso la piattaforma se tutti i video di cucina sono professionali, sono in alta qualità, sono ad friendly, no? Sono molto legati alla personalità del personaggio e sono ancora un po' fai da te, cioè ancora sembrano un po' fatti in casa. Sì, perché sono fatti ad arte per sembrare fatti in casa. Esatto, e quello è tutto il tema della creazione, della produzione a livello industriale di autenticità, che è una cosa importantissima su YouTube. Se tu vuoi piazzare un prodotto su YouTube, la prima cosa che devi chiederti è come rendere l'esperienza dell'utente autentica. Come fare in modo che ti percepisca come uno che sta facendo così un video di cuore, capito? Che non ci sia troppo studio dietro. No, esatto. Mi registro a casa mentre preparo giusto qualcosa per cena. Eh sì, e quindi il fatto sta che il cibo è proprio una delle cose, delle pochissime cose che è davvero universale, cioè non c'è nessuno che non mangia, fino in prova contraria. Allo stesso tempo, pur essendo universale, è anche altamente specifica localmente, no? Il modo, una bistecca a Firenze non è come una bistecca in Svizzera. Quindi è anche altamente culturale, no? Assolutamente. E è anche altamente politico. Ma in che senso è altamente politico? Perché ciò che mangi dice moltissimo su da dove vieni, quello in cui credi, quali sono i tuoi anche un po' pregiudizi, no? Sul mondo, e anche quanto sei ricco. Mi viene in mente, no, per esempio, la metafora di Maria Antonietta, no? Dico metafora perché probabilmente non è vero che disse davvero ai poveri, se non hanno da mangiare il pane dateli le brioche, però ecco, è una metafora che indica le differenze che ci stanno tra la classe aristocratica, quella dei ricchi, e quella invece dei lavoratori. Il pane e le brioche sono chiaramente oggetti inanimati, quindi apolitici in quel senso lì, no? Eppure allo stesso tempo rappresentano molto di più. In questo caso rappresentano la differenza di classe. Un mondo dove l'universale bisogno di cibo è soddisfatto in modi abbastanza diversi. E questo è quello, insomma, che si chiama, o che chiamo, politica del cibo. Penso per esempio, no, a quella che si chiama cucina popolare, i piatti poveri, o persino, no, il fatto che il pane in Toscana non abbia il sale. Anche quello riflette proprio un assetto politico della Toscana medievale. Cioè, assolutamente, bella la storia. Il monopolio sul sale, e una volta alzato il prezzo da parte della Repubblica Pisana, beh, i fiorentini decisero di smettere di mettere il sale nel pane e via. Quindi, insomma, nei video di cucina emerge questa dimensione politica, ma anche solo in virtù di ciò che il produttore del video, no, considera normale e quello che invece considera esotico come cibo, ciò che in generale lui ritiene sia familiare allo spettatore. Ci sono per esempio questi video, no, mi ricordo, quelli che mangiano la pizza più costosa del mondo, tipo da 1.000 euro, con le scaglie di oro sopra, tartufo e caviale, una roba veramente incredibile. Questi video opulenti, no? Anche in questi casi, nonostante siano fatti per persone che non potranno mai permettersi quella roba, chi fa il video deve comunque potersi permettere tutti i materiali, anche se fai un video dove spieghi come fare, non lo so, una bistecca di Kobe in 30 modi diversi, devi poterti pagare 30 bistecche di Kobe, insomma, che non penso sia poco. Ti regalano. Oppure c'era sto video, no, con i biscotti ricoperti d'oro, e la tizia del video a un certo punto li consigliava per i pigiama party. Ma chi è, scusami, ma chi è che i pigiama party si fa i tarallini con l'oro sopra da, non so, 500 euro? Vabbè, comunque. I tarallini. Davvero. Sono meravigliosi i tarallini con l'oro. Di sì, che sapranno non si sa, però... E quindi, no, che venga a mente a chi fa il video di consigliarli ti dice molto su a chi stanno parlando, no? E anche tanto io, che, per esempio, parlo personalmente che non vado ad un pigiama party, però. Sì, infatti, diceva proprio un pigiama party fra ragazze, diceva la tizia. Ok. E comunque poi, insomma, l'intrattenimento sul cibo a un certo punto si interseca un po' con quello dei viaggi, no? E c'è anche un po' lo sfruttamento di altre culture alle volte. Cioè, cosa intendo? Di solito il video si vende come sto scoprendo un posto, una destinazione attraverso il cibo, no? Come framing. E poi quello che fa è promuovere un piatto straniero solo nella misura in cui questo sarà percepito come esotico, al di là di quello che ci sta dietro, no? Al di là di tutta la sua storia. Per esempio, no? Il Kopi Luwak, che è il caffè, quello mangiato dalle manguste in Indonesia. E poi una volta... Sì, esatto, non sapevo come dirlo. Ragazzi, l'ho provato, non mi prendete in giro, eh? È buonissimo. È buonissimo. Allora... Io non l'ho mai provato. Vi sfido. Dove l'hai trovato? L'ho trovato comunque... da Slitti. Facciamo pubblicità a Slitti, dai. Tanto. Ah. Non dico quanto l'ho pagato perché mi vergogno. Però vabbè. Ragazzi, c'è dietro un sistema di sfruttamento orribile. Io sono stato lì in Indonesia, mi hanno fatto vedere questo luwak, no? Questa mangusta chiusa in una gabbietta minuscola, perché mica vanno a prenderlo nel bosco dove questa cosa viene naturalmente, no? Non c'era arrivato, umbe, mannaggia. Me ne sono reso conto dopo. E considera che là io mangiavo con 20 centesimi e mangiavo bene, non è che dopo stavo male. E quel caffè lì, proprio lì, mi costava 7 euro comunque. Quindi, cioè, non è una cosa... È proprio una cosa... elitaria, no? In quanto esotica ed elitaria, no? Viene promossa come piatto esotico, però te non è che vai veramente a scoprire, no? L'Indonesia, anche perché la realtà che c'è dietro poi è tutt'altra. Beh, comunque il caffè in generale non è che abbia una filiera tanto chiara, eh? Cioè non occorre andare a scovare quello, cioè... È vero, è vero. È purtroppo vero. Sì. Fin da sempre, tra l'altro. Esatto, perché purtroppo il caffè è diventata la bevanda più voluta nell'arco di veramente pochissimo tempo e quindi cioè, letteralmente cioè, ne è stato inondato il mondo di caffè e quindi c'è stato il peggio accaparramento capitalistico sui vari canali di distribuzione. Comunque, insomma, molto spesso... Oltre a questo, la natura esotica o rara di certi cibi viene sfruttata anche per porli come rimedi miracolosi, no? Un po' come il miracolo che viene dall'India, c'ha una buona dose di orientalismo, certo. Certo, più strani e sconosciuti sono e più possono essere dei superfood di cui non sapevamo niente, insomma, un po' secondo me giocano su quello, no? Sì, certo, e che possono avere anche proprietà miracolose, per esempio curare allo stesso tempo artrite, infiammazioni, obesità, malattie neurologiche, allergie, disturbi del sonno e avere effetto energizzante. Questo tipo era un video che ho visto che stava sponsorizzando tipo le acai berries, com'è che si chiama in italiano? Bacche di acai. Sì, penso di sì. E niente, ogni tanto mi viene in mente una canzone strana quando penso a tutte ste cose. Quando ero piccolo non stavo mica bene, ero anche magrolino, avevo qualche allucinazione e quando andavo a cena nel tinello con il tavolo di noce ci sedevamo tutti e facevamo il segno della croce. Dopo un po' che li guardavo, mi si trasformavano. I gesti preparati, degli attori, attori consumati che dicono la battuta e ascoltano l'effetto. E io ero lì, come una comparsa. Vivevo la commedia, anzi no, la farsa. E chissà perché... Durante questa allucinazione mi veniva sempre in mente una stranissima canzone. I porchesi son tutti dei porci, più sono grassi, più sono lerci, più son lerci e più c'hanno i migliori. I porchesi son tutti. Quando ero piccolo non stavo mica bene, ero anche molto magro, avevo sempre qualche allucinazione e quando andavo a scuola mi ricordo di quel vecchio professore, bravissima persona che parlava in latino ore e ore. Dopo un po' che lo guardavo mi si trasformava, sì. La bocca si chiudeva stretta lo sguardo si bloccava, il colore scompariva. Fermo, immobile. Di pietra. Sì, tutto di pietra. E io vedevo già il suo busto davanti ad una aiuola con su scritto «Professor Malipiero, una vita per la scuola». E chissà perché, anche durante questa allucinazione, mi veniva sempre in mente una stranissima canzone. I borghesi son tutti dei porci, più sono grassi, più sono lerci, più son lerci e più c'hanno i milioni. I borghesi son tutti. Adesso che son grande, ringrazio il Signore. Mi è passato ogni disturbo, senza bisogno neanche del dottore. Non sono più ammalato, non capisco cosa mi abbia fatto bene. Sono anche un po' ingrassato, non ho più avuto neanche un'allucinazione. Mio figlio mi preoccupa un po'. È così magro. E poi ha sempre delle strane allucinazioni. Ogni tanto viene lì, mi guarda e canta. Canta una canzone stranissima che io non ho mai sentito. I borghesi sono tutti dei porci. Più sono grassi e più sono lerci. Più son lerci e più c'hanno i milioni, i borghesi son tutti mo. E quindi a che punto siamo su YouTube con i video di cucina? Cosa c'è da sapere se uno volesse iniziare, no, a fare il food blogger? Cosa bisogna sapere prima di partire? Io guardo solo How to Basic. Quello è bellissimo. E dopo, infatti, se ne potrebbe anche parlare. È veramente un genio. Quante uova spreca, veramente. Comunque, è proprio vero che tutti possono fare un video di cucina? Beh, la prima regola da sapere è che non bisognerebbe farlo. Perché tutti pensano di poterlo fare e invece c'è un casino di competizione e è difficilissimo trovare un audience prima di bruciarsi, sia perché scopri che ci sono 25 milioni di cose da fare prima di iniziare a fare le cose per bene, sia perché magari finisci i soldi prima. Quindi non è difficile, no, far sembrare un piatto buono e appetitoso con le luci giuste, con delle macchine di un certo tipo, però è ancora più facile fare magari una roba buonissima e però poi la metti in video e si fa schifo da vedere. Cioè, è proprio un casino perché ci vogliono delle cucine che in realtà sono degli studi fotografici, oltre ad essere anche cucine professionali. La luce è importantissima, ci deve essere un sacco di ordine, lo spazio, la minima macchia di unto rovina completamente tutto l'effetto. Se ci fate caso, in quei video lì non c'è nemmeno una macchia da nessuna parte. Non sporcano mai, mai, mai, mai, non ci deve essere neanche un cosino di unto che sia del riflesso, niente. Poi il frigo non ce l'hanno lì, perché sennò fa troppo casino. Serve uno che ti riprende mentre fai le cose, perché non puoi fare tutto da solo. Poi la qualità del video deve essere super alta. E ci sono tre pilastri fondamentali di questa industria, l'industria dell'intrattenimento del cibo, a cui devi dare priorità differenti, però diciamo che insomma ci si regola più o meno con questi, no? Per decidere che tipo di food blogger essere, in un certo senso, no? Il primo pilastro sarebbe il valore informativo, quindi tu effettivamente dai delle ricette, spieghi delle cose, dai delle linee guida, aggiungi informazioni e conoscenza al pool dello spettatore. Il secondo pilastro è lo spettacolo e il terzo è la personalità, il personaggio, no? Ora, Il più importante di questi, che in realtà è diventato necessario adesso, è proprio lo spettacolo, è obbligatorio. Ci deve essere lo spettacolo in qualche forma, possono essere ingredienti costosi oppure introvabili, può essere la complessità di quello che fai, o le dimensioni di quello che fai, o magari un metodo, un ingrediente strano che stai facendo, oppure magari solo tipo gente fortissima in quello che fa delle robe assurde con dei livelli di competenza incredibili, e te stai lì a dire, wow, guarda questo che ti fa la torta di Jurassic Park, no? Per esempio. Ora, non è che sono categorie fisse, però lo spettacolo è quello che vende di più. E al momento su YouTube e Instagram domina alla grande. Penso per esempio alle barbabietole rosse che sono state di moda a un certo punto, un sacco. C'è stato un anno in cui quel fucsia lì era tipo il colore di Instagram, fra virgolette, no? Tutti i social media manager e le agenzie di marketing sapevano benissimo che usare quel colore era vincente su Instagram. Il colore che danno le barbabietole rosse anche, no? Quando le frulli, per esempio. Quel fucsia lì. Ora, non so se è vera sta cosa, però mi hanno detto che le barbabietole in realtà non hanno granché come proprietà nutritive. Non sono tutto sto granché, cioè non è stata proprio una riscoperta di un cibo in quanto salutare, no? Necessariamente. Poi non dico che non siano salutari, però... Vabbè, ma forse c'è di meglio, nel senso, sono anche estremamente dolci, sì, nel senso, magari ci sono alternative anche più sane delle barbabietole, ci sta. Esatto, esatto, cioè il punto è che ci sono cibi che esistono perché fotograficamente sono molto appetibili, attirano l'attenzione sui social media. Poi ci sono proprio anche video completamente finti di ricette che sembrano facilissime da fare, in realtà cioè, stanno proprio fingendo al massimo. Sono video che sembra che si possano seguire, ma in realtà il valore informativo, quello di cui parlavo prima, appunto, è unicamente percepito. Cioè, la cosa importante è che tu a te sembri di poter seguire quella ricetta. Poi il fatto che sia un video montato in modo completamente differente, che non riuscirai mai a riprodurre, quello non è così importante per i produttori alle volte. Beh, comunque, per concludere, nonostante ci sia un bias strutturale che premia i grandi team corporativi che hanno tantissimi soldi, YouTube permette ancora a persone che si sanno arrangiare, così come Instagram, in modo intelligente, di fare delle cose belle. Ci si può godere lo spettacolo del cibo, pur restando consapevoli del fatto che c'è una visione del mondo, un atteggiamento verso il cibo e anche una specie di filosofia del cibo, no? Che viene promossa attraverso questo entertainment, questo spettacolo. Non è che il cibo sia intrinsecamente buono o cattivo o un certo tipo di spettacolo lo sia, però non è nemmeno neutrale, c'è qualcosa di implicito. E questa cosa che è implicita è un giudizio su cosa è il buono nel mondo e un po' anche come il mondo dovrebbe essere. Per esempio quei video che dicono che bisognerebbe tutti provare a mangiare l'oro. Questa cosa può essere restrittiva, costringente, un po' prescrittiva, però ci può anche arricchire ed aiutare ad apprezzare altre culture. Quindi alla fine ce le possiamo guardare. Questo è dire. C'è del buono anche lì. Quindi dovrei cominciare a guardarli, dici? Ma guarda, se non li stai già guardando puoi anche risparmiarteli. Io continuo con Sottiletta e Maionese. Questa sera poi si mangia assieme. Macchine scassate, musica selezionata. Mi alzo sempre troppo tardi per comprare qualche cosa. Giù al bar per il giornale, chi c'è chi si rivede. E sappiamo benissimo come andrà a finire. Shining is staying away. sei mai. Sullo spazio scooter passi traffico e sei a casa mia. Mangiamo nuvole di drago, riso cantonese, Coca-Cola. È il biglietto nel biscotto che ci dice è tutto a posto. E sappiamo benissimo come andrà a finire. Chinese takeaway. Ce l'abbiamo fatta. Questo grazie. Era un easter egg, ragazzi, bella. Perché Mao, il cantante, è stato il leader negli anni 90 del gruppo Mao e la Rivoluzione. Bellissimo. Ed è stato anche il conduttore del programma Kitchen su NTV insieme a Andrea Pezzi negli anni 90. Io me lo guardavo, ragazzi, la sera, non aspettavo altro. C'era Morgan, le storie tese, bellissima. Una figata pazzesca. Bellissima. Ma sai che io non poi ce l'ho sfociata. Presente? No, ma datelo a cercare perché veramente il non giovane nasce lì, cioè era tra il pubblico e è diventato un personaggio. E ha tante belle kick, bellissime, bellissime cose. Vale la pena. Sì, sì, sì, sì. E niente, introduce il mio argomento che è cucina e psiche. Si parte dal cibo. Il cibo rappresenta un legame profondo con la vita e con le sue infinite declinazioni. Non solo serve a sostenere lo sviluppo psicofisico, ma narra di emozioni che si annidano nell'anima di ciascuno di noi. È un po' come dicevi te, Umbe, è un po' lo specchio della società, anche Giallo, no? Facendo l'excursus sul modo i metodi di cucinare, no? L'uomo si evolve insieme alla cucina e viceversa. Assolutamente. E diventa quindi rappresentativa di una cultura, di un popolo, e ne evidenzia la struttura sociale, la storia. In sintesi, quindi, il cibo è la narrazione di ciò che siamo, sia in senso positivo che negativo, e rivela la nostra provenienza e il comportamento. Andiamo a vedere perché. Allora, intanto la psicologia, la vecchia scuola, parla di seno buono e seno cattivo, proprio a indicare l'importanza di un nutrimento soddisfacente e adeguato per il bambino. Pensate, uh-huh. Non ho idea. La modalità con cui si offre quel sostentamento attraverso il seno materno getterà le basi della futura personalità di quella creatura. Questo vuol dire che da adulti i gusti saranno fortemente influenzati dalle esperienze gastronomiche dell'infanzia. Quindi già si determina, no? La modalità con cui una persona si pone nei confronti del cibo rivela la sua identità e il modo in cui vive determinate emozioni. Coloro che amano di più i cibi dolci hanno un carattere disponibile e collaborativo. E esiste un effetto bontà, ovvero chi non rinuncia a un pezzetto di cioccolato è più disponibile rispetto a chi mangia un cibo salato. I soggetti dolci, che amano i pasticcini, le torte, i dessert, sono più emotivi e propensi ad avere cura degli altri. Al contrario, i soggetti salati, pasta, pizza e cracker, hanno un carattere estroverso e indipendente. Bello. A quanto pare emerge questa questione, salato e dolce. Chi è abituato ad assaporare gli alimenti con calma è una persona riflessiva che apprezza i singoli momenti e difficilmente stressato. Però dall'altro lato potrebbe anche essere egocentrico e concentrato su se stesso. Quindi attenzione. Coloro che mangiano velocemente invece sono tendenzialmente più soggetti allo stress. Il modo in cui le persone mangiano, voracemente o meno, è anche un primo indizio di come fanno all'amore. Giustamente. Quindi occhio quando mangiate in compagnia. Qualcuno vi osserva. Esatto. Negli ultimi anni anche le scelte alimentari assumono una valenza sociale e questo è quasi qualificano l'essenza di ciascuna persona. Coloro che seguono una dieta vegetariana, vegana o ipocalorica, ok, vengono reputati buoni dal punto di vista morale, più intelligenti e attraenti. Al contrario, chi sceglie alimenti cattivi ad alto contenuto di grassi o insalubri viene additato come immorale, meno intelligente e poco attraente. Vabbè, ciaone proprio, siamo a dei livelli incredibili. Ragazzi, se rimanete sulle sottilette la maionese, butta male, butta male. Cavolo, non posso più uscire adesso, non posso più fare vita sociale. Come vorrei anche qui, vabbè. Ragazzi, mi manca un sacco, dai. Speriamo di averla presto. Tornerà. Comunque il cibo ha questo legame ancestrale col soddisfacimento dei bisogni e anche con il sesso. Rappresentano due fondamentali piaceri della nostra esistenza. La fame alimentare e quella sessuale sono legate da uno stretto rapporto in cui l'una difficilmente può slegarsi dall'altra. Quindi se si seduce con il giusto equilibrio, dalla cucina al letto il passo è breve. Attenzione qui. Bisogna passare dopo la fascia 12, cioè esatto. Mezzanotte. Terza serata. Caliente. Si può conquistare il partner con il cibo allora? La miglior soluzione è quella che attraversa i sensi, passando dalla via orale per arrivare all'incontro intimo. Dovevi fare la doccia calda, però ragazzi non so. Ma come si fa a passare dalla tavola al letto? Come conquistare il partner con il cibo? Cucinare insieme può essere intrigante e creare quell'intesa, quel feeling. Il cibo ha un legame ancestrale col soddisfacimento dei bisogni, abbiamo detto, e quindi il sesso c'entra molto bene. Mangiare bene fa bene all'umore e senza dubbio il buon umore predispone e migliora il sesso. Avete mai visto una persona smagrita sorridere, gioire della vita e godere del buon cibo? La seduzione e l'erotismo quindi passano anche e soprattutto dal cibo, e a tal proposito il cinema ci insegna molto. Ci sono Le Fragole, per esempio, di 9 settimane e mezzo, L'Aragosta di Flashdance, I Cioccolatini di Cioccolà, Il Sandwich di Harry, Ti Presento Sally. Questo è una dedica alla mia moglie. Bellissimo. Un bacio. Solo per fare qualche esempio. Però c'è anche La Grande Abbuffata, eh. C'è anche La Grande Abbuffata, ma ce ne abbiamo quante ne vuoi, che lo sai. Ma concretamente, ragazzi, come si fa a creare la situazione giusta? E cosa è opportuno portare in tavola? Mangiare in buona compagnia è un ottimo punto di partenza, perché si crea un ambiente accogliente ed eroticamente stimolante. Servire cibi gustosi e piacevoli, inoltre, determina la produzione di endorfine, sostanze chimiche di natura proteica prodotte dal cervello con un alto potere analgesico ed eccitante, quindi un mix, un su e giù di emozioni. È quella scarica che si sente subito prima quando si sa che è pronto da mangiare, ti viene quella scarica di oh mio Dio, ora si mangia. E poi c'è da dire che per noi uomini cucinare è ritenuto sexy, no? Assolutamente. Quindi, insomma, è anche una nota in più, un vantaggio in più. Assolutamente. Bravo. Ma col grembiule o senza grembiule? Col grembiule, ma nudo sotto. Come ti vesti lo decidi te, eh? Solo col grembiule e il culetto di fuori. Quello dipende. Cuciniamo strano? Vabbè. Ragazzi, comunque mi state aprendo un mondo, eh. Cioè, io ho sempre accolto con quel mix letale di alcol e puzza di piedi. Non sapevo che invece dovevo puntare sul cibo. Vabbè, sei sempre a tempo, insomma. Non si smette mai di imparare. Infatti, cominciare... Grazie. Esatto. Fai qualcosa col formaggio, così il puzzo di piedi lo mascheri. Una fondue ci sta. Buonissimo. Sta molto bene. Comunque, ragazzi, in un certo senso la cucina prende il posto del letto, perché in fondo la miglior seduzione è quella che attraversa i nostri sensi, passando dalla via orale per arrivare all'incontro intimo, ragazzi. Questo è quanto. La migliore, imparate a cucinare perché è la miglior modo di baccagliare in generale e via. Semplice ed efficace. Ma tornando un po' più seri, la cucina, ragazzi, è cambiata perché nel corso degli anni ha seguito mutamenti sociali ed economici delle società. Negli anni 60-70 era il centro della casa, no? Un luogo di aggregazione, dello stare insieme, dei pranzi domenicali con tutta la famiglia. Era uno spazio dove i giochi dei bambini si intrecciavano con i lavori degli adulti, la nonna che faceva la pasta fresca, la mamma che magari preparava il secondo e qualcuno rammendava. Certo. Era vissuto in maniera diversa. Era uno spazio dove i giochi si intrecciavano, ma non solo. Era il focolare, cioè dove c'era il fuoco e ci si ritrovava per riscaldarsi. Quindi aveva veramente una valenza sociale. E l'atmosfera che si percepiva, appunto, era di calore, condivisione e benessere nella semplicità. Oggi invece è cambiato tutto perché il sistema famiglia e la società si sono modificati. Oggi la cucina come spazio fisico diventa un tutt'uno con la zona living. Quest'ambiente non è più il focolare domestico perché oggi è più importante apparire più che esserci, perché oggi la cucina è di chi la vive, cioè chi la usa, la sporca e ci mangia. È proprio quello infatti che stavo pensando, perché fondamentalmente anche l'industria alimentare, tutto si è spostato verso... non so, siccome bisogna essere produttivi, siccome siamo in questo meccanismo di competizione spietata, poi fondamentalmente non c'è più tempo per dedicarsi allo stare dietro alla nonna, imparare la cucina, la tradizione, le ricette e così via. Tutto è diventato roba pronta che puoi riscaldare con microonde, roba liofilizzata, roba, cioè, che praticamente ti minimizza letteralmente quello che te devi essere capace di fare, cioè ti mettono nelle condizioni di aggiungere acqua, accendere il fornello, e quello credo che sia la portata di chiunque veramente. Sì, però si cerca la scenicità di cui parlava anche Umberto, no? Sì. Cioè, sono sempre più spettacolari. Forse anche meno pensate per la funzionalità a volte. Sì, quando poi vai nella cucina gourmet sicuramente, certo. E la cucina ai nostri tempi quindi è un luogo dove si cerca di recuperare un ruolo centrale nella casa, ma che poi in realtà si trasforma in asetticità e nella ricerca di tecnologia. Le cucine moderne sono a scomparsa di pochi centimetri. Non servono cucine ampie e grandi oggi perché si preferisce qualcosa di... da condividere piuttosto che... Certo, sì. Vabbè, è cambiato anche appunto l'utilizzo che se ne fa, nel senso che il tempo che ci si passa tipicamente è molto meno e quindi chiaramente deve essere qualcosa che poi, non so, minimizza anche l'impatto che ha all'interno della casa, ecco, nel senso il fatto che venga insieme al living room, perché sicuramente anche le case non sono più i tre piani e chissà quanto posto, chiaramente, quindi tutto deve essere più... è molto più asettico, tecnologico e alla fine anche funzionale, ma c'è un'alternativa alla cucina, no? Che è il takeaway. Quello poi, certo. Oh no. Anzi, ormai farselo portare a casa è di moda, fa anche figo, è venuto delivery. Esatto, e poi parliamo ora della quarantena, quindi altro che di consegne di qualunque genere sono esplose. Sì, ma vogliamo mandare un pezzo prima? Perché no? Why not? Anche perché comunque non va bene, ragazzi. Cioè, adesso avete creato questa atmosfera di casa, famiglia, comunità, focolare. Ora tocca a me fare la rubrica notizie di merda della settimana. Appunto, bravo, tiriamo un bravo. Po' il... un pruno con la mamma, eh? Esatto. Ma qualcuno aveva detto che c'era un pezzo che parlava delle endorfine, se non avevo capito male. Endorfine? Parliamo di endorfine. E ci droghiamo perché lo fanno pure gli animali, con loro sì che ci siamo cugini, mica i francesi. Si droga il gatto per la sua erba, lui va proprio matto, si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé. Si droga il tipo che fa le gare con la bicicletta, si droga quello con la sigaretta e la slot machine. Si drogano tutti durante l'ora dell'aperitivo, si droga il prete con tutto quel vino, si droga Dio. Se ci pensi scopri che ti droghi pure te. Si droga quello per sopportare l'ansia ed il dolore, si droga l'altro che vuole dormire, che male c'è. Si droga il nonno da quando non gli tira più l'uccello, si droga mamma per restare bella. Ma se volete una droga sana, allora non vi resta che un po' di musica dentro alla testa per stare su. Se ci pensi scopri che ti droghi pure te. Se ci pensi scopri che ti droghi pure te. Se ci pensi un poco su, ti droghi pure tu. Forse non tutti sanno che durante gli sforzi fisici intensi e prolungati il cervello rilascia endorfine, neurotrasmettitori con proprietà simili a quelle della morfina. Il benessere che ne deriva è uno dei fattori che spinge molte persone ad allenamenti frequenti ed estenuanti. Ed il dottore si droga sempre prima di operare, si droga tutte le sante mattine con il caffè. E droga il sesso, l'informazione, i soldi ed il successo, anche se non lasciano nessun riflesso nella pipì. Ma più di tutti sono drogati quelli innamorati che si strafanno di carezze e baci come noi due. Se ci pensi scopri che ti droghi pure te. Se ci pensi scopri che ti droghi pure te. Se ci pensi un poco su, ti droghi pure tu. Eccoci, tornati in studio. Negli studi, vuoi dire? E che studio? Back on air. Io sono sul tavolo di cucina, non so voi. Io sono su un tavolo che è grande come quelli della scuola superiore. Sì, ma quelli dei nostri tempi o quelli di ora che sono monoposto? Monoposto, sì, questi individuali, infatti. Monoposto a rotelle. Per il vero mondo neoliberale. Quelli nuovi già, con le ruote. Dicevamo di consegne a domicilio, no? Ormai. Consegne a domicilio, infatti. Di Riders. Sta settimana è stata una settimana abbastanza... cioè doveva essere una settimana importante per i Riders, ma insomma le cose non sono andate esattamente come tutti si aspettavano, anche perché comunque in questi mesi di pandemia sono stati definiti lavoratori essenziali come altri, e grazie al loro lavoro sono riusciti insomma sostanzialmente a portare le persone più vulnerabili la spesa a casa, la cena, il pranzo. Esatto, con una delle peggiori coperture a salute anche insomma in generale. Esatto. Sì. Però il problema è che le condizioni di lavoro dei rider sono tra le più problematiche in Italia e nel mondo. Il problema principale è che sono pagati a cottimo, quindi non hanno un minimo salariale orario, non godono di nessuna forma di garanzia, quindi non possono godere né di malattia né di ferie. Non hanno tredicesima, non hanno quattordicesima, nonostante svolgono un'attività che presenta molti pericoli. Ci sono i pericoli della strada, c'è adesso comunque il pericolo anche di contagio, e poi formalmente, cioè non formalmente, ma dovrebbero essere, poi alla fine sono dei lavoratori dipendenti, quindi non dovrebbero essere trattati come dei lavoratori a cottimo. Eh sì, infatti all'inizio addirittura la sponsorizzavano come... un modo di tenerti in forma mentre guadagni qualche soldo. Cioè devono correre da una parte all'altra con l'ansia tutta la notte. Poi c'è il sistema per cui meno lavori, meno hai la possibilità di lavorare, no? E poi fra l'altro in Italia sono tantissimi, infatti secondo alcune stime della CGIL i rider sarebbero all'incirca 20.000. Probabilmente in questi ultimi 8 mesi potrebbero essere addirittura aumentati, anche se appunto non esiste nessun dato ufficiale. Ma si saranno sicuramente aumentati. Sono sicuramente aumentati, sì, anche perché comunque è uno dei pochi lavori, insieme all'high tech e a tutto il resto, che comunque hanno aumentato il fatturato. Il volume, sì, pandemia. Sì, certo, esatto. La new economy, chiavi tu nel 2020, madonna. E poi da un punto di vista, diciamo, delle persone che fanno questo mestiere, diciamo, sono soprattutto migranti, richiedenti asilo da poco arrivati in Italia e residenti nei centri d'accoglienza, diciamo, al di fuori delle grandi città universitarie, mentre nelle città come Bologna o Firenze, per esempio, sono anche studenti, giovani lavoratori precari che hanno reddito con questa attività. Però appunto il 3 novembre ci doveva essere questo grande incontro. Però il problema è che l'accordo che è entrato in vigore il 3 novembre prevede che si mantenga il pagamento a cottimo e blocca l'introduzione di una paga oraria in linea con i livelli salariali stabiliti. È contestato perché è stato siglato, fra l'altro, solo con l'UGL, che è un sindacato che non è considerato minimamente rappresentativo dei fattorini, che negli anni hanno formato diverse sigle sindacali come la Riders Union, e mentre appunto l'UGL conta pochissimi iscritti, quindi l'UGL non rappresenta nessuno, insomma, è un sindacato che appunto ha pochi iscritti e non si è mai visto in piazza in questi anni, anche perché i rider francesi sono più volte in piazza per protestare e chiedere maggiori diritti. Quindi a quanto sembra l'UGL si è prestato al gioco... Esatto. L'UGL si è prestato al gioco delle aziende di consegne di cibo a domicilio. Diciamo, con questo accordo che si è concluso al di fuori del tavolo istituzionale convocato dal governo, sono stati bloccati i precedenti passi in avanti e ostacolati quelli che sono stati in vigore della legge 128 del 2019. Questa legge che prevede una paga oraria adeguata al contratto nazionale dei facchini e dei lavoratori della luce. Ok, quindi hanno rimandato ancora? Sì, hanno rimandato. Ci doveva essere un altro incontro, ora mi sa ieri o l'altro ieri, ma anche questo non è andato a buon fine, perché sembrava che Just Eat avesse dichiarato l'intenzione dal 2021 di assumere... come dipendenti, lavoratori, però anche lì non si è ancora ben capito se lo farà o meno. Sembrerebbe di no, ecco. Ok, diciamo che intanto lì conveniva dirlo. Esatto. Strano. Me l'ho già rivisto questo giochino, non so perché. Sì, spengono la shell. Sì, cerca di calmare l'incidente mediatico e poi tutti se ne dimenticano. E quindi spezziamo una lancia, direi, in favore di queste persone. Che... Sì, spezziamo una lancia. E lottano quotidianamente per dei diritti che non hanno. Fondamentalmente sono precari, si è detto, studenti e migranti. Sì. Forse dargli qualche diritto su questo lavoro qui può aiutare anche a risollevare l'economia. A maggior ragione con i rischi in più che ci sono ora, legati anche a, insomma, questa situazione particolare della pandemia, insomma. Togliendo qualche privilegio, qualche profitto a Just Eat, Deliveroo e company, magari, che già ne fanno abbastanza. Che prendono il 30% su ogni vendita, eh? È vergognoso. Infatti sì, io con qualcuno che avevo parlato appunto era contrario proprio per quel fatto lì, che nel senso sì, va bene, ti fanno lavorare di più, però sono quasi degli strozzini, cioè per rientrarci anche un'attività, insomma, non è così semplice, devi essere come già un po' con le spalle coperte, con un buon volume d'affari per inserirti in una cosa del genere, non è che il classico artigiano, cioè la cosa artigianale, ecco, si possa permettere più di tanto di dare via il 30% di quello che dovrebbe guadagnare. Questo dal punto di vista dell'attività, no? Sì. Certo, esatto. E quindi direi che possiamo dedicare una canzone. Di protesta, giustamente, per riallacciarti alla scorsa puntata. Bello. Rimarrà fisso il tema protesta. Esatto. Mi aderisco alla campagna protesta. Protesta permanente. Una canzone sia di protesta ma anche... danzereccia, ecco, perché insomma alla fine è sabato. Ma mentre sto ca cantando e ballando mia mamma. Per me stava di canna in un pensiero, in ossessione, ma qualcosa sa da far da riga. Basta, basta, basta, non posso più stanco. Dopo 7:40 mamma e papà, ricatta l'ossessionata, mantenuta parassita. Ma sta storia da farmi voglio salaria garantita. Massimo rispetto, massimo rispetto per chi in strada si scende davvero. Rispetto. Sì. Sì, davvero. Bene, adesso io avevo delle altre notizie di cui parlare, ma una è veramente troppo deprimente. Guarda, lascio proprio perdere, glisso completamente. Forse quando riuscirò a metabolizzarla, dato che stiamo parlando di cucina, la dirò. Io comunque vorrei lanciare un'iniziativa qua, sorpresa. Bello. Una sorpresa anche per tutto il team. Sì, vorrei lanciare un crowdfunding. Abbiamo bisogno di 35 euro per comprare il microfono Nick e il computer a me. Oh, ragazzi, non vi dimenticate di me. Ma non abbiamo gli sponsor, scusa. Appunto, oggi è lo Slitti, se non sbaglio, il nostro sponsor. Oggi no? Sì, oggi sì. Fornisce lui. Boia. Ringraziamento. Grazie, grazie. Ci ha mandato due barattoli di nocciolata, però non so se si possono scambiare col microfono. vediamo. Comunque, insomma, allora, notizia brutta, non la dico, basta, non la saprete mai. In realtà ne ho un'altra, sono tutte abbastanza brutte. Dai, via, non può essere più brutta del pop coreano che diventa disco d'oro in Italia. Peggio di quello non c'è nulla. Abbiamo già toccato. Si è già elaborato il lutto. Però una la dico, perché comunque in giro vedo troppa gente presa bene, quindi è giusto riportare tutti alla dovuta calma. Insomma, è un periodo veramente troppo euforico. Sì. Quindi, dato che si parlava di cibo, vorrei veramente spendere due parole su... persone che ci permettono di avere questo cibo nei supermercati, oltre appunto alla questione riders che ce lo portano eventualmente a casa, secondo me bisogna fare lancia anche in favore dei braccianti del centro-sud Italia. Bravo. Che comunque si trovano a dover vivere e lavorare sempre in delle condizioni riprovevoli. E infatti il 12 novembre, quindi insomma una settimana, più di una settimana fa, l'ex sindacalista e attivista Boubacar Soumaoro, che rappresenta ormai da molti anni le fasce più deboli della popolazione, i cosiddetti ultimi lavoratori di tutte le nazionalità che sono la base dell'indispensabile filiera agricola, ma che vengono privati dei propri diritti di lavoratori e di uomini. Oggi tuttavia queste persone, questi esseri umani, dalla politica e dalla società bellamente ignorati, ci offrono una grandissima lezione di civiltà, una lezione di fatti e di parole, di teoria e soprattutto di pratica, perché loro è un lavoro difficile, difficile e molto pratico, molto, molto faticoso. E questo come è stato fatto? Ovvero il 12 novembre è stato fatto uno sciopero al rovescio, uno sciopero cioè compiuto continuando a lavorare, ma rinunciando alla propria paga, cercando di far sentire la propria voce pur non facendo venir meno il proprio essenziale contributo. Ora, io non so bellissima voi... Bellissima questa cosa. Ma... Sì, è molto bella, però in realtà mi ha lasciato un po' stupito, ecco. Mi ha lasciato un po' stupito me e poi oggi, guardando su internet, ho visto che non ha lasciato stupito solo me, ma ha lasciato stupito anche l'unione sindacale di base che Soumaoro ha lasciato lo scorso luglio, che ha scritto un durissimo articolo che dice «Difficile comprendere cosa porti un ex sindacalista a proclamare urbi e torbi che i braccianti, quelli che guadagnano 3 euro a cassetta di pomodori, che vivono in baracche di lamiera roventi d'estate e gelide d'inverno, che non hanno contratto né diritti, il 12 novembre, come forma di protesta per la loro condizione, supereranno però alla rovescia, cioè lavoreranno senza avere in cambio nemmeno quei maledetti 3 euro su cui tutto il mondo nei mesi scorsi ha giustamente discusso e si è giustamente scandalizzato». In pratica garantiranno in regalo a quei padroni legati agli enormi profitti della grande distribuzione organizzata anche quel misero compenso di una giornata di fatica consumata con gli stivali nel fango. In tempi lontani anche la UIL provò a suggerire questa forma di non sciopero nei settori essenziali e venne spernacchiata e messa all'indice da tutti, ripeto, da tutti. Coloro che si ostinano a ritenere lo sciopero e il diritto di esercitarlo uno strumento determinante nel confronto tra capitale e lavoro. Quindi insomma è stato un momento intenso, direi. Appunto, perché avevo sentito che insomma, questo reiteramento di lockdown, crisi, eccetera, eccetera, stava letteralmente mettendo in ginocchio l'industria per quanto riguardava appunto l'agricoltura, ma in generale poi quella, la filiera del cibo, che era quella la cosa insomma un pochino più emergenziale di tutta questa situazione. Quindi l'avevo collegata a quella. Però non avevo neanche capito bene, cioè avevo inteso sciopero al contrario, poi si vede mi sono distratto, cioè avevo capito che questi andavano a lavorare lo stesso e che tutto era fondamentalmente normale, quindi pagati e tutto, ma che in un qualche modo lo facevano portando avanti questa cosa di protesta. E quindi avevo detto, ok, c'è una presa di consapevolezza del fatto che sia un settore che in questo momento, fra virgolette, ha difficoltà a potersi fermare e quindi però allo stesso tempo vuoi far sentire la tua voce. Quindi il fatto che abbiano rinunciato alla paga e andato a lavorare uguale, questo dopo mi ha un attimo confuso perché... No, anche a me mi ha un po'... Non ho capito, cioè un conto è dire, ok, riconosco che sono un lavoratore essenziale e quindi ci vado a lavorare, però statemi anche a sentire perché qui io ho qualcosa da dire di importante, però appunto rinunciare, se ci vai a lavorare rinuncia alla paga, non capisco. Bene. Penso ai voti sindacalisti... Sembra quasi un immacolarsi, guardatemi, mi crucifiggo, però boh, non so se ha davvero il senso... Però non è uno sciopero, ecco, nel senso, perché lo sciopero segue sciopero. Delle dinamiche diverse. Lo sciopero sì, sì, diverse. Sì, infatti. Ed è per questo che secondo me è importante parlarne, perché questi hanno addirittura rinunciato alla loro misera paga, quindi mi sembra giusto addirittura parlarne. Sì. E... Doveroso. Doveroso. E tutto questo comunque era anche per sottolineare l'importanza appunto di una spesa consapevole. Vada ad impattare negativamente sulla dignità dei lavoratori di tutta la filiera agricola e non dimenticare appunto che in questo paese ci sono problemi strutturali sempre più aspri, problemi di caporalato, di privazione sistematica dei diritti fondamentali che avvengono nelle nostre campagne e tramite cui viene permesso ai ceti più abbienti di vivere nell'indifferenza di continuare a fare la spesa ogni giorno quasi come se niente fosse, no? Come se tutto questo fosse lontano. Sì. Infatti consiglio di vedere The Harvest, per chi non l'avesse visto, che è un docu-musical girato nell'Agropontino, che per la prima volta unisce il linguaggio del documentario alle coreografie delle danze Punjabi, raccontando l'umiliazione dei lavoratori sfruttati dai datori di lavoro e dai caporali. È un documentario uscito qualche anno fa, molto molto bello. Una forma tutta nuova, bello. Esatto. Mm-hmm. E poi per finire volevo spendere due parole contro lo spreco alimentare, perché comunque è un'altra piaga abbastanza grossa della nostra società. Infatti si stima ogni anno che siano circa 1,3 miliardi le tonnellate di cibo che vengono gettate. Uno sproposito. Se gli sprechi alimentari fossero un paese, sarebbe il terzo più grande produttore di gas serra. Boia. E con l'obiettivo di combattere lo spreco alimentare, finalmente una buona notizia, arriva in Italia un'app che si chiama Too Good To Go, che in realtà l'abbiamo importata dalla Danimarca, infatti esiste già in altri 9 paesi d'Europa, che conta ad oggi 8 milioni di utenti. Quest'app sostanzialmente permette a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati, hotel, di vendere online a prezzi ribassati il cibo invenduto. Ed è semplicissima, io l'ho scaricata e per esempio qua a Bologna si trovano cose. Bellissimo. Sì. Esatto, infatti questa volevo dirla perché comunque è una bella notizia. Ma gratis? Gratis. No, gratis l'app non è no, è a prezzi ribassati. Too Good To Go si chiama. Sì. Ok, beh dai, è già qualcosa. Sì, vabbè, non te la regalano, però comunque ti danno l'opportunità di prendere una cosa comunque fresca che altrimenti verrebbe buttata, ecco. Cioè, quindi nel senso c'è il doppio beneficio, no? Merce invenduta, certo, quindi chiaramente, insomma. Sì, perché su quella scaduta si apre la parentesi, no? Che il fatto che dopo c'è la responsabilità di chi, se qualcuno si deve sentire male, quindi c'è tutti questi problemi, per cui... Esatto. E però c'è anche lì, c'è veramente un problema, come dicevi, te, strutturale davvero, perché specialmente in un momento del genere, no? Dove comunque ancora di più si sente lo spreco, il momento di crisi, quindi un bel passo in una direzione giusta, sicuramente. Sì. E poi ne abbiamo anche una italiana, però, che si chiama, è veramente orrendo il nome secondo me, MyFoodie, ed è la prima startup italiana a impegnarsi nella lotta contro gli sprechi alimentari attraverso un sistema che permette agli utenti di conoscere i prodotti in scadenza nei supermercati, scontati fino al 50%. E... risparmiare comunque non male. Esatto. Inoltre MyFoodie ha introdotto una sezione Impara con consigli utili per l'autoproduzione e l'ecocosmesi, ricette antispreco realizzate con le parti di scarto di frutta e verdure. Da vedere, eh? Sì. Quindi direi che... abbiamo contornato la cucina, abbiamo contornato, insomma, in generale la cultura, ciò che ci gira intorno. Anche chiuso il cerchio. La modernità, quindi sì, direi che abbiamo fatto un bel excursus. Abbiamo toccato tanti argomenti, poi è chiaro, c'è un tema talmente ampio che è difficile toccarli tutti, probabilmente. Impossibile, letteralmente. Impossibile. Infatti, chissà, magari ci ritorneremo. Chissà. E quindi, ragazzi, ci salutiamo? Sì. Ci salutiamo per davvero. Ci salutiamo. Sì. Grazie agli ascoltatori. Grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Le migliaia ormai. Ormai, esatto. Di fans. Le centinaia non le contiamo nemmeno più. Ce l'ha il jungle, capo. Murderer, murderer, take it to that. Baby.